Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Sui prime pagine dei giornali di oggi lo scontro tra le procure, il clima di assedio che c'è nella magistratura, una notizia in fondo non nuova, i magistrati sono all'attenzione proprio per la crisi della giustizia che c'è in Italia, ma questa volta siamo di fronte a qualcosa di particolare. Ne parliamo oggi con Marco Tarquinio. Buongiorno Tarquinio. Buongiorno. Marco Tarquinio è vice direttore di Avvenire, ha firmato l'editoriale di prima pagina Questa giustizia che ormai assedia se stessa. Devo dire che l'idea di invitare Tarquinio non era nata tanto dal problema giudiziario, ma dal fatto che in questi giorni Avvenire festeggia i suoi primi 40 anni. Come si dice, Avvenire è nato nel 68 dalla fusione di due giornali, l'Avvenire d'Italia e l'Italia, è un quotidiano dichiaratamente cattolico e che ha anche raggiunto alcuni traguardi negli ultimi mesi, ha superato ormai stabilmente le 100.000 copie, è in crescita, anche se lenta, in un mercato difficile come quello dei quotidiani, e in questi giorni sta appunto festeggiando i 40 anni. Come si sente da quarantenni, Marco Tarquinio? Beh, diciamo che è una bella sensazione, soprattutto come nel mio caso sia qualche anno in più. È un piccolo salto indietro. Beh, è una storia importante, io professionalmente sono contento di aver condiviso per un qualche tratto. Non sono nato ad Avvenire come giornalista, ma ci sono arrivato e ci resto molto volentieri nel lavoro che sto svolgendo, perché è un giornale che consente quello che a volte in Italia è un po' difficile, di avere uno sguardo un po' diverso dal solito sulle cose che accadono nel nostro stesso paese e nel mondo. Cioè, il fatto di essere un quotidiano esplicitamente cattolico in fondo vi rende più liberi perché si sa da che parte siete e quindi non potete essere accusati di faziosità. Sì, questo indubbiamente può sembrare un impaccio, invece si traduce in una libertà, sembra paradossale, ma siamo in condizioni di poter organizzare la scaletta delle notizie del giorno secondo criteri che non sono legati alle priorità politiche del momento nel paese, nel nostro paese, che non sono legate alle agende dei potenti del mondo. A volte sulle nostre pagine spessissimo fanno più notizia i poveri dei ricchi e dei grandi. Ecco, con un'attenzione particolare ai temi sociali, oggi per esempio c'è il supplemento E Famiglia, che è dedicato appunto ai temi familiari, temi che vanno un po' anche al di là e oltre la cronaca di tutti i giorni, la cronaca politica, la cronaca bianca o la cronaca nera, e come si dice c'è un tentativo di affrontare in maniera anche strutturale i problemi sociali e i problemi politici. Sì, questa è la logica dell'inserto E Famiglia, ma anche degli altri inserti che realizziamo, è vita e è lavoro. Nel caso specifico di E Famiglia, oggi ad esempio torniamo sul tema del bonus famiglia, che anche qui, per uscire da un dibattito a volte condizionato dagli slogan ideologici, guardare e cercare di spiegare come in effetti funzionano le cose individuando un problema preciso. Vale a dire che così come è stato pensato, con una serie di requisiti ben determinati legati ai vecchi criteri di ISEE, rischia alla fine di essere tutto meno che un bonus famiglia ma un bonus single nel nostro paese, e questo è un problema sul quale il governo dovrebbe concentrarsi. Ecco, allora andiamo a parlare dei temi di stretta attualità. Questa giustizia che ormai assedia se stessa, il titolo del tuo editoriale questa mattina su Avvenire, che conclude affermando: parlare di rischioso gioco al massacro non è eccessivo, e stavolta se ne rendono conto i magistrati, la stesso sindacato ANM, che i politici. La speranza, lo ripetiamo, è che gli uni e gli altri si rendano anche conto che alla drammatica consapevolezza del problema giustizia si deve dare una buona volta a seguito con interventi incisivi e riforme ben calibrate. E ancora scrivi nella conclusione dell'editoriale: i magistrati sono e devono restare un autonomo potere dello Stato, ma non devono avere il potere politico di dichiarare guerra a nessuno, neanche a se stessi. Allora Marco Tarquinio, siamo di fronte a una guerra di potere, a una guerra che in fondo vuole mettere di fronte appunto i magistrati in una battaglia per vedere chi è più forte? Ma io temo che questa sia, spero, l'ultimo momento di una fase di degenerazione nella quale siamo immersi ormai da anni, che ha portato a rendere sempre meno credibile il ruolo della giustizia nel rapporto con le altre istituzioni dello Stato, degli altri poteri dello Stato. Cerco di spiegarmi, io ho un grande rispetto per la magistratura e credo che continui a svolgere un ruolo importantissimo nella vicenda civile e sociale del Paese, ma quello che sta accadendo in queste ore fra Salerno e Catanzaro, due procure che per me, con occhi di cronista e di cittadino, restano i due presidi essenziali nella prima linea delle lotte alle mafie, alla camorra, all'andrangheta, vedere i magistrati che inviano plotoni di carabinieri e di poliziotti a recapitare avvisi di garanzia ad altri magistrati, vedere carabinieri che circondano una procura per prelevare gli atti di un'inchiesta in corso. Non so come definirla, la famosa o famigerata inchiesta Why Not, che da 3 anni e mezzo sta tenendo in scacco tanta parte della nostra attenzione. Ecco, dà una sensazione devastante di incapacità di concentrarsi sui problemi reali del Paese e di propensione a trasformare tutto in uno scontro di tipo politico. E questo lo trovo un messaggio veramente e potentemente negativo al Paese. Sì, indubbiamente il fatto che lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano si sia sentito in dovere di intervenire anche pesantemente, in maniera anche irrituale in questa situazione, anche se Napolitano è Presidente del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, ma le funzioni poi esecutive sono di fatto esercitate dal Vicepresidente Nicola Mancino, che peraltro ha anche prospettato la possibilità di sue dimissioni per le implicazioni peraltro indirette in questa vicenda. Ecco, dimostra appunto questo intervento forte di Giorgio Napolitano il fatto che questa battaglia tra procure vada un po' al di là del semplice scontro tra poteri, ma coinvolga direttamente anche la politica e quindi abbia nei suoi risvolti politici qualcosa di molto rilevante, ma insieme anche di molto preoccupante. Sentirei Fabio da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, io non mi trovo d'accordo sul fatto che continuate voi giornalisti, che dovreste fare un'informazione corretta, continuate a parlare di guerra tra procure. Intanto diciamo le cose come stanno: Salerno ha dovere di indagare sulla procura di Catanzaro perché De Magistris aveva fatto degli esposti contro il procuratore capo di Catanzaro, contro tanti suoi colleghi, per avere ostacolato le indagini, avere fatto di tutto e di più, cioè ogni iniquidezza, che ormai sono atti pubblici, sono atti che conoscono tutti, però voi non date conto all'opinione pubblica e parlate di uno scontro tra procure. La procura di Catanzaro, quando definisce la procura di Salerno eversiva, fa un atto addirittura, secondo me, delinquenziale, perché lo si può, cioè un cittadino come me può dire eversivo di una procura, ma quello che è una procura non può dire di un'altra procura che sta facendo dell'eversione quando sta facendo solamente il suo dovere costituzionale. Questo gli ha assegnato come procura di controllo alla procura di Catanzaro. Infatti la procura di Catanzaro, per dare contro la procura di Salerno, si deve rivolgere alla procura di Napoli. Questa è la giusta cosa. Quello che sta facendo la procura di Catanzaro, dove secondo me, il mio parere, c'è dentro una massa di delinquenti che dovrebbero essere stati messi in galera dal signor Mancino. Ecco, mi scusi, ma non posso permettere che si diano dei giudizi così sommari durante la trasmissione, quindi lei ovviamente si assume le sue responsabilità. Noi cerchiamo di capire appunto com'è la situazione. Lei ha partito dicendo non c'è una guerra di procure, ma poi ha continuato affermando, appunto, anche riportando delle frasi che in fondo qualche piccolo contrasto, possiamo dire così, c'è tra queste due procure, e c'è sul fatto appunto che magari ognuno, ovviamente sentendoci pienamente legittimato di fare gli atti che ha compiuto, però di fatto ha portato a uno scontro aperto che è fatto di atti e controatti, di mosse e contromosse, come tutte le battaglie, come si afferma in tutti i manuali di strategia militare. Marco Tarquinio, puoi aggiungere qualcosa? Ma io credo che non spetti a noi valutare quale degli atti sia stato più eversivo. È l'insieme, come dicevi bene, direttore, che porta a percepire questa condizione drammatica che ha indotto il Capo dello Stato, come hai ricordato, a fare qualcosa che non era mai accaduto nel nostro Paese, a intervenire così pesantemente su questa vicenda. Detto questo, io vorrei solo sottolineare una cosa. Abbiamo una strana propensione a leggere tutte le vicende giudiziarie, dalle ricadute politiche, con le lenti di una parte, in qualche modo, e a trasformarci in tifosi. Dovremmo aver imparato lungo almeno gli ultimi 15 anni della nostra storia comune che questo atteggiamento non porta da nessuna parte. E qui è urgente che i magistrati e coloro che hanno responsabilità politiche si rimbocchino le maniche e spezzino questa spirale, perché così credo che il Paese non possa andare avanti. Che ognuno in fondo possa fare la sua parte, che i giudici facciano i giudici, che i politici assumano le proprie responsabilità di politici e che magari noi cittadini non diamo delle sentenze preventive su quanto vediamo e su quanto appunto poi è oggetto di intervento da parte della magistratura. Ivo dalla provincia di Milano, buongiorno. Purtroppo è caduta la linea. Vediamo Donatella da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io stavo ascoltando con interesse, al di là di tutte le vostre conclusioni, quello che io spero che venga fuori anche da quest'ultima battaglia è la verità, semplicemente questo. Come l'ascoltatore precedente, non mi interessa affatto il discorso della guerra di potere o della guerra fra procure. Qualcuno ci deve semplicemente spiegare se il giudice De Magistris è una persona al di sopra di ogni sospetto, ha fatto giustamente la sua inchiesta ed è stato ingiustamente stoppato, interrotto e trasferito, oppure se era un visionario che aveva sbagliato completamente. Questo è quello che noi vogliamo sapere, semplicemente questo. La ringrazio, mi sembra che sia un desiderio di tutti. Marco Tarquinio. Sacrosanto, c'è poco da aggiungere. Grazie mille, stiamo parlando dello scontro tra procure, di questa nuova vicenda giudiziaria che si intreccia tra Catanzaro e Salerno. Lo facciamo con Marco Tarquinio, vice direttore di Avvenire, che è qui con noi. Darei la linea a Ivo dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver richiamato. Approfitto per fare gli auguri ad Avvenire, a quale da laico ho sempre riconosciuto di avere soprattutto un grande occhio per la politica estera, che viene presentata in un modo meno banale della media dei giornali italiani. Per quanto riguarda invece l'argomento di cui stiamo parlando, mi sembra che qualche volta ci si guardi il dito, che pure è ammaccato dalle martellate che riusciamo a darci, vedi caso procura, e si perde di vista la luna, che in questo caso è un grande problema, un grande accordo trasversale che pare che fosse successo nelle aree della Calabria. La persona chiave, tra l'altro, che è stato chiamato tra l'altro dall'ufficio di Mancino, mi pare che fosse una persona che fosse di dubbia moralità, anche se di certa provenienza. Mi pare che questo sia un modo forse per nascondere il problema vero. E questo è un po' l'osservazione che mi pare che anche gli altri che sono intervenuti prima di me abbiano sottolineato. Grazie. Se Marco Tarquinio vuole ringraziare per gli auguri ad Avvenire, poi ritorniamo a parlare delle procure dei giudici. Grazie sincero e non di maniera, davvero. Ecco, procure e giudici, certamente qualcosa che sfugge e che lascia aperto il campo al sospetto in questa vicenda indubbiamente c'è, soprattutto da noi che possiamo seguire la vicenda dall'esterno senza avere tutte le carte, e non a caso lo stesso Presidente della Repubblica ha chiesto le carte e il dossier dell'inchiesta. Ecco, però ridurre tutta una battaglia di potere politico è forse giustificato, o c'è qualcosa? Altro. Marco Tarquinio. Ma io devo dire che ho cercato in questi 3 anni e mezzo di andare al nocciolo del problema, al di là del grande clamore e, come dire, della spettacolarizzazione televisiva che è stata fatta di questa inchiesta. Io amo molto i giudici che lavorano nel silenzio e, come si diceva un tempo, nel nascondimento, senza portare in piazza il proprio lavoro fino a quando questo non è arrivato a conclusione. Mi chiedo quanto effetto distorsivo abbia avuto l'eccesso di spettacolarizzazione intorno a questa vicenda rispetto agli esiti deludenti e schiaccianti, no? Che stiamo vivendo. Certamente un'inchiesta nella quale entrano, se bisogna fare i nomi li facciamo, progressivamente, uno dopo l'altro, il leader locale di Forza Italia, il presidente del Consiglio dei Ministri del centro-sinistra Romano Prodi, il leader dell'Unione di Centro Lorenzo Cesa, segretario politico, e giù per gli rami, fino ad arrivare a lambire l'attuale presidente del CSM e guarda caso solo dopo che il CSM è intervenuto nella vicenda con deliberazioni assunte da magistrati che fanno capo a componenti le più diverse, da quelle cosiddette di centro a quelle di sinistra a quelle cosiddette moderate. Insomma, a me impressiona, o c'è un complotto gigantesco oppure c'è qualcosa che non torna. E di questo complotto, visto che sono emerse nelle ultime ore carte che vanno a lambire con unghiate e insinuazioni anche lo stesso Quirinale, che non avrebbe vigilato come è dovuto, mi pare che portano veramente a livello massimo l'allarme. Ecco. Di qui credo che tutti, anche quelli fra noi che si sono persuasi che ci possa essere una base al fondo di questa inchiesta, i conti non tornano, tutti possono rendersi conto che i conti non tornano. Ricordo solo un'accusa: uno dei leader che ho citato prima è accusato di avere frequentazioni di tipo massonico e poco chiare per anni, insomma, ed è una persona che per storia è assimilabile a tutto tranne che esperienze di questo tipo. Ecco, io vorrei ricordare solo una breve frase dell'intervento sul punto di Stefano Folli oggi su Sole 24 Ore, che dice: le guerre interne alla magistratura non sono sopportabili in un'Italia in cui intere regioni sono in mano alla malavita organizzata. Ecco, Marco Tarquinio prima ricordava appunto come questa estensione dell'inchiesta partita da Catanzaro abbia coinvolto un po' tutti i politici, ma forse c'è da chiedersi se in quelle zone la magistratura non abbia perso un po' di vista il problema di entrare invece a lottare fino in fondo contro una malavita organizzata che sta sconvolgendo anche la stessa attività economica e le stesse possibilità di crescita di queste regioni. E allora forse un tornare ognuno a fare il proprio compito e senza volere che la magistratura diventi un potere politico forse potrebbe essere una indicazione per tornare sulla strada giusta. Marco Tarquinio, cosa ne pensi? Io penso che la realtà sia anche in questo caso che sono tantissimi giudici, un numero considerevole di giudici che stanno lavorando con le caratteristiche che dicevo prima, senza far clamore, vivendo vite che sarebbero insopportabili a gran parte di noi, blindati, rinunciando a una dimensione familiare, lavorando a testa bassa per affermare un principio di legalità in quelle parti del nostro territorio nelle quali l'antistato è diventato tanto potente e pervasivo da mettere in dubbio persino che lì ci sia la sovranità della Repubblica italiana. Io a loro sono grato e noi anche sulle nostre pagine cerchiamo di dare loro tutto lo spazio e tutta il risalto che è giusto dare nei momenti in cui le inchieste possono essere raccontate. Spesso, come a tutti i giornalisti, capita di sapere il bene che accade, ma preferiamo aspettare dare notizie affinché quelle notizie abbiano poi un seguito concreto. Grazie, sentiamo Dario da Torino. Pronto? Sì, pronto, dica pure. Salve, complimenti a tutti quanti, soprattutto al vostro ospite che mi è piaciuto molto l'ultimo pezzo che ha fatto di analisi sulla questione che si sta discutendo. Ecco, io mi allineo a tutti gli ascoltatori, ritengo che non è corretto parlare di guerra fra procure, perché mi sa che c'è una procura che sta indagando su un'altra, perché nell'altra c'era qualcosa che non andava. Quindi vorrei che non venisse distolta la luna puntando la vista sul dito, ecco, tutto lì. E mi allineo con tutto quello che è stato detto prima, bisogna fare molta attenzione che non vengano strumentalizzate queste cose nell'ottica di questa nuova riforma giudiziaria che si vuole fare, non ben ancora definita. Comunque, ecco, niente, questo era più o meno il mio intervento. La ringrazio, sentirei anche Roberto da Roma, buongiorno. buongiorno a tutti. Ma io sostanzialmente, guardi, sottolineerei quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Da comune cittadino ho seguito questa questione e sono rimasto sostanzialmente però colpito da un aspetto che viene sottolineato da tutti o comunque dalla maggior parte della stampa, che è proprio incentrato sulla guerra, sottolineo questo termine, tra le due procure. Ma in realtà a me piacerebbe anche capire un po' più in dettaglio, e questa è un po' una responsabilità che credo sia della stampa, degli organi di informazione, effettivamente cosa è successo, perché altrimenti rimane tutto sul vago, si butta in politica, si comincia a dire si appoggia di qua, si appoggia di là, però nella sostanza se una procura arriva a compiere dei gesti di questo genere, di come credo siano consapevoli, ben consapevoli della gravità di quello che hanno fatto, sinceramente credo che abbiano qualcosa in mano. Allora io mi aspetterei dalla stampa anche un approfondimento di questo genere, e questo, diciamo, questo atteggiamento superficiale invece mi fa pensare a una non volontà magari di una certa stampa, non voglio dire di tutta. La ringrazio per l'osservazione. Ecco, indubbiamente io difendo un po' i giornalisti, vi scusate, ma la stampa cerca di fare il suo dovere, certe cose non può dirle perché non le sa, sono coperte dal segreto istruttorio, sono coperte dalle indagini. La stessa procura di Salerno, che ha stabilito appunto le perquisizioni della procura di Catanzaro, ha fatto delle perquisizioni e ha fatto dei sequestri di documenti per voler sapere, quindi è la stessa procura di Salerno che vuole sapere che cosa è successo veramente a Catanzaro e poi che ha provocato questa reazione dei giudici di Catanzaro. I giornalisti fanno il loro dovere, cercano di dare le informazioni che hanno, cercano di averne il più possibile, ma ecco, i giudici facciano anche i giudici e certe volte devono mantenere anche il riserbo sulle loro azioni per non appunto accusare e condannare prima delle regolari istruttorie. Rapidamente Tarquinio per concludere. Sì, diciamo che c'è poco da aggiungere a quello che ha appena detto caro direttore. Probabilmente in questa vicenda dobbiamo considerare che non è solo guerra di procure, ma si è spostato a un livello più alto, è una guerra anche nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, e questo è il fatto davvero nuovo e spiazzante di tutta la cosa. Salire di livello istituzionale è una cosa che non avevamo mai visto prima e che penso tutti quanti dobbiamo cominciare a valutare per quello che è. Grazie Marco Torrio. Certamente la situazione è particolarmente delicata, particolarmente pesante, forse il paese aveva bisogno di qualcos'altro che non una guerra tra magistrati in questa fase. Comunque ci avviamo verso il Natale, cominciamo a fare gli auguri, li faremo ancora, auguri ad Avvenire per i suoi 40 anni, grazie a Marco Tarquinio, vice direttore di Avvenire, che è stato con noi questa mattina, grazie a Filippo Reggi in regia, grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per lunedì.